21h. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti, siamo in onda su Radio Alma, I colori dell'anima, siamo... Buonasera! Siamo Angelo, che avete appena sentito, siamo alla folli. Regia. E Carla, che è appena arrivata con questo traffico di una Bruxelles allegramente Ragazzi, bloccata. Un freddo esagerato, avevo voglia di un cappello di lana, le cuffie, quel paraorecchie, guanti, siamo tornati in inverno. No, ma tra l'altro volevo anche sottolineare il fatto che noi siamo la prima puntata dei colori dell'anima d'estate. No, perché siamo ufficialmente d'estate dopo da ieri. Mi sento in... Con questi 11 gradi, non ti senti io? Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Grazie, che ci riscaldi con questa voce così fantastica. Qua ci vuole una stufa, ragazzi, quindi mettetevi in ascolto, riscaldateci con commenti, telefonate o quant'altro, o al numero fisso 02 345 26 56 oppure sulla nostra pagina Angelo e Carla Onair, pagina Facebook ovviamente, quindi se ci state ascoltando, se ci state sentendo, vuol dire che siete sintonizzati o su 101.9 FM o siete su internet in streaming su radioalma.eu. Angelo alla regia, Cecilia con me in studio. Abbiamo anche un ospite stasera, mica uno, ragazzi, no, qua pienone. abbondiamo. Siccome fa freddo, abbiamo deciso di riscaldare un po' l'ambiente di questo studio con insomma diversi ospiti che ci vengono a fare... Che ci accordano, ragazzi, stasera abbiamo... Quante corde abbiamo? Tante! Allora, ne abbiamo 6... Le stiamo contando? 1, 2, 3, 4, fanno 10 corde stasera, più le corde vocali. Siamo in 4, ne abbiamo 2, sono 8, ragazzi, 18 corde stasera. Più, no, sì, è vero. Ci abbiamo 2 corde vocali. No, aspetta, vocali. Sai che ho sempre dei problemi a contare. Sì, ci abbiamo 2 corde vocali. Che io, chi Cecilia, ragazzi, vi raccontiamo, noi abbiamo visto le nostre corde vocali. È vero, questo non credo che sia di grande interesse per molti, però... È vero, le abbiamo viste. Filmate, belle, io ogni tanto me le riguardo. E il bello è che sono orizzontali, non sono, noi ce le immaginiamo verticali. E no, sono orizzontali. È vero. Come le nostre labbra. Fanno una specie di V, come Vittoria. Vittoria delle corde vocali. Ma passiamo la linea ad Angelo, che ci fa dei segni ostrogoti che io non riesco a decifrare. Questo in arabo vuol dire ausgutgo. E qui in cinese. No, qui in studio abbiamo dei gravi, serissimi problemi tecnici, quindi noi vi lasciamo in compagnia di Adele mentre noi cerchiamo di risolvere questi problemi. Adele con Don't You Remember. Fickle heart and bitterness and wondering high and heaviness in my rientriamo dolcemente in studio con Adele che ci canta sotto. Allora, stavamo dicendo cosa, Cecilia? In realtà abbiamo appena scoperto che avevamo un problema tecnico e l'abbiamo risolto, e di questo siamo tutti molto contenti. E siamo ritornati in studio, dove siamo molti più di quelli del... Attenta Cecilia, arriva il ritornello, attenta. Ah, scusami, non dico più niente. Attenta Cecilia, che arriva il ritornello. Un momento di... Don't you remember? Bene, stavamo dicendo? Cosa stavamo dicendo? Se continui a interrompere, mi sa che non... Attenta riesco a che fare... il ritornello. Scusa, stavi dicendo? Sono peggio di un uomo, Angelo, su queste cose. Cioè, io se perdo il filo... The reason you got me. Quanto si sta divertendo mentre io vorrei scavare una fossa. Ritorniamo gentilmente in studio, abbiamo risolto i nostri problemi tecnici, quindi possiamo dare inizio alla puntata dei I colori dell'anima ufficialmente. Estate! Sei calda come i baci che ti ho perduto. Basta, pensavo che sarebbe partito il jingle. Mi aspettavo il jingle, non so per quale motivo. Basta sto jingle, basta. Non ci piaceva tanto. Volete il jingle? Volete il jingle? Sì, vogliamo il jingle, perché abbiamo detto che la puntata ci piace. Vabbè, ci mettiamo piace sto jingle. Oggi di che colore sei? O meglio, quale indosserai? Lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Sentito il jingle, ci sentiamo pienamente a casa, ufficialmente a casa, e siamo ai colori dell'anima. Sono ufficialmente le 21:07, appena scattate, e siamo qui, possiamo cominciare lentamente a introdurre la nostra ospite di questa sera, che si chiama Mariam. Buonasera Mariam! Buonasera! Buonasera a tutti, sono contenta di essere con voi, è veramente una bella esperienza, non aspettavo... Non è ancora cominciato, Mare, sì, magari però... è un incubo, non lo so. Però aspetta Carla, è bello che lo dica all'inizio, no? Poi alla fine... Perché alla fine magari dice, oddio mio, andrà dall'analista per 6 anni dopo questa esperienza, invece almeno all'inizio dice che le è piaciuta, è bello, no? Sì, è bello. Allora, preparati il colore, no vabbè... ovviamente, come dice la puntata, questi sono i colori dell'anima, quindi alla fine ti chiederemo, forse Cecilia già t'ha preparato, ti chiederemo il colore a cui vuoi associare questa puntata. Bene. Questa tua esperienza. Ok. Allora, io posso giusto brevemente introdurre, perché mi è venuto in mente poi di invitare Mariam, perché è una persona interessantissima che era un po' stressata quando stavamo venendo qui. Gli hai fatto 2-3 birre, hai dato 2-3 birre. No, non gliel'ho date, però l'ho portata a mangiare libanese, quindi l'aglio, abbiamo mangiato tanto aglio. Ho fatto bene a mettermi per la gioia dei rispettivi mariti questa sera, e quindi speravo che avesse l'effetto della birra. E insomma, dici un po' tu di... intanto da dove vieni? Io sono iraniana, origine iraniana, e ho anche nazionalità belga, e vivo a Bruxelles da più di 10 anni. Madonna, chi te l'ha fatto fa? Ma chi te l'ha fatto Angelo, fare? Angelo, tra poco ci arrivi pure tu. Tranquillo Angelo, anche tu arriverai. Arriverai. Manca... Ma meno lo di spero quello di arrivare, sinceramente. Sì, manca meno di quello che pensi. E dall'Iran, come... raccontaci un po' il tuo giro del mondo. Il mondo, va bene, sono venuta qua a Bruxelles per studiare e poi sono rimasta qua. Cosa hai studiato? Economia e commercio. Poi mi piaceva tanto imparare italiano e ho cercato di fare un stage in Italia all'ultimo anno dell'università, e sono andata a Milano e ho fatto un stage lì, e così che ho cominciato a imparare italiano. Mm-hmm. E qui in Belgio avevi già conosciuto italiani? Beh, è impossibile non conoscere tanti. Troppi. Perché in Belgio, Bruxelles, poi ce ne sono moltissimi, quindi... Sì, infatti ero molto abituata a sentire l'italiano, e poi... E poi ho deciso di fare questo stage per migliorare, imparare meglio e poter comunicare con i miei amici a Bruxelles. E quindi sei andata a Milano, sei stata per quanti mesi? 4 mesi. 4 mesi. Sì. No, non ti preoccupare, noi ci facciamo gestacci, corne. No, no, di segni, è impossibile. Mariam, non ti preoccupare, questa è seguire. Non prestare attenzione, non... Ma guarda, dai, passa. No, okay. non ci cagare, come si suol dire. Soprattutto loro due, che fanno finta di fare radio, Maria. Ok. Noi abbiamo studiato anche noi 5 anni, abbiamo fatto uno stage, dove l'abbiamo fatto? In California. Io ne ho fatti diversi. Ecco, no, ma tutti per la radio. Tra Roma, dico, e provincia. No, ma per la radio, non ti ricordi? Per la radio. Ma Miriam, su cosa l'hai fatto lo stage? Economia e commercio, sei stato distratto. Sì, ma nello specifico proprio, cosa ti hanno fatto fare? Eri la schiava di chi? Sì, un direttore che devo fare assistente. Fotocopie. Sì. Quasi. No, era molto interessante perché all'inizio pensavo che tutti parlavano inglese, invece non era il caso. Per niente. Arrivata in Italia. Diciamo la verità, ogni volta che uno straniero arriva qui a Bruxelles, che vuole fare uno stage, alla fine si ritrova nel Medioevo. È un po' inquietante questa... Mica solo un poco. Cioè, c'ho i brividi, stanotte mi sognerò Angelo. Senti, comunque... però Cecilia, una domanda nasce spontanea. Ma dall'Iran, che sei venuta a fare in Belgio? Cioè, a studiare, l'hai detto, però... perché... Che bella domanda. Beh, prima per studiare, poi... Però dico, tanti stati, proprio il Belgio. Sì, il Belgio perché è capitale d'Europa per imparare francese. Ah, ecco. E, perché è una città molto multiculturale. Sì, già 10 anni fa era multiculturale. Un po' di meno, dai. Un po' di meno. Dicono, io non c'ero 10 anni fa, però dicono che non fosse come adesso. Sì, era un po' diverso, però era sempre molto internazionale, una piccola città frizzante, che ti offre tanto. Ok. Così. E io direi di non offendere troppo il Belgio, perché qua abbiamo due rappresentanti, veri rappresentanti del Belgio, e magari dopo gli faremo dire esattamente da dove vengono, ma io approfitterei per presentarveli di nome, due fratelli, che fratelli, Guillaume e Julien. Gilin. E magari ve li presentiamo musicalmente e poi li faremo parlare. Il brano che ci vanno ad eseguire è There Will Never Be Another You. Thank you. No, oui, c'est un oui, c'est un non, c'est un oui. C'est donc voilà. Donc ça va. Ça va. Donc encore une fois, merci à Guillaume et à Julien Gillin. Et peut-être vous pouvez juste vous approcher, remercier nos radioascoltateurs, ceux qui entendent la radio. Donc pourtant c'est la première fois Guillaume, celui-là. Voilà. Oui, pour moi, c'est la première fois. Voilà, peut-être qu'on aura des prochaines fois, si vous voulez, parce que c'est vraiment un honneur de vous avoir ici. Avec grand plaisir. C'est très spécial comme expérience, mais c'est chouette. Et c'est toujours un plaisir de jouer de la musique ensemble, de toute façon. Et apparemment, après, on va entendre un morceau à toi, c'est ça? C'est ça, oui. On s'est dit que c'était une bonne idée de jouer une composition. Count's Tune. C'est ça, oui. Et après, on va voir de la suspense. On va pas quand même tout dire de ce que vous allez jouer. Voilà. Et donc, petite interruption, mais on veut aussi entendre la voix de l'autre frère. Ouais, de Julien. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est notre habitué. Bon, c'est ta deuxième fois, mais il n'y a pas de 203. Je ne sais pas si on dit ça en français. Oui, c'est ça, jamais 203. Donc, On t'attend en juillet et puis on t'entend en septembre. Et voilà, puis l'abonnement. Et puis toute la saison. Et voilà. Et on reprend notre course, notre train en course. Donc, et cambiamo anche lingua. Ritorniamo alla nostra Mariam. Quindi a un certo punto lascia l'Iran. Viene in Belgio per studiare economia e commercio e poi a un certo punto impazzisce per l'italiano, se lo vuole imparare. Ecco, un anno a Milano in stage. No, non sei mesi? No, quattro mesi. Ah! Sì, sì. E com'è successo che sei riuscita a imparare l'italiano così rapidamente? Non dovevo imparare, se no non potevo comunicarmi con sopravvivenza. I ragazzi. Sopravvivenza. Sopravvivenza si chiama in Italia. Sì. E poi ho deciso di continuare quando sono tornata a Bruxelles, mi sono iscritta all'Istituto di Cultura Italiano e ho continuato sempre a studiare. Ok, e qua sento puzza di un marito italiano, puzza, odore, profumo, sì, no, forse. Era destino. Sì, era il destino, per questo infatti ho imparato l'italiano, ho cercato un marito italiano. Eccola. Sì. Marito italiano che hai conosciuto però qui a Bruxelles. A Bruxelles infatti. In quattro mesi voleva trovare pure marito, Cecilia. Che ne sai? Non so. Magari era stata particolarmente brava. Complimenti. No, in quattro mesi no. Dai. Non riuscivo mai. Piano piano. Ci vuole. Vanno fatte scelte ponderate. Sì. Vedi, la ragazza si vede che è posata, è tranquilla, riflessiva. Quindi quattro non mesi. Non come noi. Non mica come noi. Siamo un po' confuse. Esatto. E poi devo studiare tutto bene. E quando ho conosciuto mio marito era strano perché ho detto, ma sei italiano? Ho detto, no, sono romano. Ah, ecco. Romano de Roma. Hai dovuto imparare una serie di cose che magari per noi italiani sono scontate, ma che ci sono tutte differenze, microcosmi in Italia, in cui appunto uno magari si sente dialetti, uno si sente romano. Piano piano. Senti, ma io avevo una domanda che poi non ti ho mai fatto, ma mi è venuta adesso. Quanto diversa è la struttura, per esempio, del persiano? Cioè, è difficile per una persona che parla persiano studiare una lingua come l'italiano, che è appena... Beh, conoscendo già francese era molto più facile imparare l'italiano, però da persiano imparare l'italiano è più difficile perché è tutto diverso. No, è proprio diversa la struttura, vedi? Sì. Quante cose si imparano? Penso che è abbastanza diverso. Non è ma facile. Ci sono declinazioni, no? Per esempio, non lo so come posso spiegare, è difficile. Mio marito voleva cominciare a studiare persiano. Da cioè, certo ha punto... desistito. Sì. Vabbè, ma lui non c'ha lo scopo di sopravvivenza, perché sa che parli italiano. Sì, era più molto comodo così. Certo. Forse un giorno devo trovare e poi motivazione. La tua famiglia forse parla anche in, insomma, in inglese. In inglese, quindi comunque tuo marito riesce a comunicare con loro. Sì, in inglese parlano insieme. E io devo dire che l'ho sentita parlare in persiano, e il persiano è una lingua bellissima, suona. Senti, ci fai sentire, non lo so. Ci dici qualcosa, tipo buonasera a tutti. Leggici qualcosa magari. No, anche dirci semplicemente qualcosa in persiano. Una presentazione, non lo so, mi chiamo Maria, mo okay. Dici che c'hai 18 anni, ho 18 anni, così. Magari. Tanto noi non lo capiamo comunque, e quindi noi rimaniamo sull'italiano 18. Ok. سلام به همگی اسم من مریمه خیلی خوشحالم که اینجا هستم امشب che bello vedi come suona però di più di più vai un'altra cosa آهنگای ایتالیایی خیلی دوست دارم امیدوارم امشب چند تا آهنگ ایتالیایی هم بشنویم به همه سلام میگم cioè traduzione mi piacciono tanto tutte canzoni italiane sono contenta di essere qua stasera è un grande onore oh. È un onore per noi infatti grazie a te e sai io ho una collega che vuole è impazzita vuole andare cioè non è che sia folle però è veramente ci tiene in maniera particolare pur lavorando con i ma vabbè quello è un altro discorso però vuole andare per forza in Iran e non trova compagnia davvero e proprio e lei si è messa pure su una chat per cercare compagnia per andare in Iran niente da fare non trova tutti desistono mi può contattare è così facile lascio il mio numero mi contatta e organizziamo un viaggio in Iran te la trovi a casa insieme. Mariam guarda che poi te la trovi poi là poi arriva e, sì. E non te la molli più è belga però gli dirò magari che se ha delle domande precise te l'ha dirotto ok un bacio a Michelle che non ci starà ascoltando perché non capisce nulla di italiano però la salutiamo lo stesso e continuiamo con una domanda che so Cecilia ha in testa una domanda io la leggo nel suo cervello questa domanda chiarissima che però voglio far formulare a lei perché è più figo adesso mi hai messo così con le spalle al muro su questo acuto no siccome stavamo parlando di viaggi di questa tua collega che insomma vorrebbe andare in Iran chiedo insomma magari a Mariam se ci può dire che cosa si può prevedere io penso molto banalmente a due o forse a me io se penso all'Iran da ignorante che non c'è mai stata penso allo zafferano ai tappeti alle montagne brava siamo bravissima. Quasi a pizza e mandolino siamo proprio no ma perché questo è cliché. questo è quello che io quello che mi evoca è il fatto di pensare all'Iran ma insomma è arrivato anche il mandolino però ma quale mandolino vabbè faceva il suo grazie Angelo violino mi fa rima salvando. Con mandolino Che invece è? Ok, lasciamo perdere. Dovrebbe essere, non lo so. Cos'è? Ah. Che strumento è? Perché non vorrei dire uno strumento per un altro. Tour. Ecco, vedi? Ok, no, non volevo dire un altro strumento che poi hai capito che ci sarà. Non senti che era la batteria? Si chiama Santur. Ed è nasce uno strumento tipico iraniano? Penso, sì. Ma lei non così dovrebbe essere. Non so così suonarlo. Dicono. Così dicono. Dai, così ci mettiamo nell'ambiance della Persia. Grazie. Che poi, tra l'altro, io ho scoperto oggi, cioè forse una parte di me lo sapeva, ma ho scoperto pure che in Iran si scia. Io l'ho sempre pensato come un paese incredibilmente caldo. Tu lo sapevi, Carla? No, questo mi mancava. Effettivamente anch'io avevo il cliché del calore del deserto. Allora, ci sono quattro stagioni in Iran. Anche in Europa. Però in inverno fa freddissimo. Più freddo che qui. A Bruxelles ce n'è una sola. O quattro in un giorno. Però bisogna avere un'immaginazione, l'estate. Te la devi immaginare, dici tu, giustamente. Infatti, in Belgio. Facciamo un gran lavoro di fantasia noi a vivere qua. Sì, sì, sì. Soprattutto i nostri armadi sono pronti all'uso per le quattro stagioni. In base all'orario si cambia la giacca, la scarpa, e qua le donne sono subito pronte con lo scarpino aperto, il piede curvato, sì. Non so come fanno, vabbè ragazzi. Un raggio di sole e subito parte la scarpa, quella aperta. Il sandaletto. Senti, secondo me anche adesso che si è aperto il cielo, ha smesso di piovere dopo 24 ore praticamente che pioveva, secondo me se usciamo qualcuna col sandalo e la gonna senza le calze la troviamo in questo posto. Io l'ho trovata venendo. Senti, ma veniamo... Torniamo a Maria. Dai, qua stiamo evadendo. Stai evadendo dall'estetista e tra poco parliamo di ceretta. Ma... Però non diciamo che siamo tutti con sciarpa qua, il freddo. Sì. Senti, ma io ripasserei la linea, i microfoni a questi due fratelli, the Two Brothers. Basta, vi ho battezzato Two Brothers, che vi suoneranno quel brano di Guillaume Gillin, Count's Tune. Thank you. Grazie, grazie mille a Julien e a Guillaume Gillin. E io, noi passiamo sempre la parola perché ci piacciono, ci piacciono. Julien, vieni un po' per qua, vieni, vieni. Un petit mot à nous, on dit pas écouteurs, nos auditeurs. Nos auditeurs. Tu me l'avais dit même l'autre fois, mais j'oublie, moi. Que dire Tout proche. Un mot sur ce morceau, je sais, c'est pas à toi, mais voilà. Ah, c'est un morceau que mon frère, ici présent, a composé, qui s'appelle donc Count's Tune, en hommage à Count Basie. Ah, d'accord. Un grand pianiste de l'air swing et des big band. Parce que bon, l'esthétique de ce morceau se rapproche beaucoup de l'esthétique composer. De Count Basie, voilà. D'accord. Mais du coup, moi, je verrais bien aussi Guillaume dire un mot sur ce morceau-là, quand il a composé... à l'honneur de lui, mais pourquoi tu t'es inspiré forcément de lui? Mais je joue dans pas mal de projets, dont un projet très swing, où on respecte beaucoup l'idée avec de tradition. Peut-être Nicolas et Luca, c'est ce projet-là. Exactement. Voilà, donc on va leur dire bonjour, même si peut-être qu'ils ne nous ont pas écouté le truc. Mais bon, on le fait quand même avec la pensée. Salut Nicolas et Luca. Un morceau d'ailleurs qui a été arrangé par un ami et... qui a été arrangé pour une section de cuivre, et je trouve que ça sonne vraiment dans l'esprit de Count Basie, la manière dont il l'a arrangé. J'espère pouvoir encore rejouer cet arrangement et amener ce morceau avec de plus en plus de souffleurs et jouer avec le plus de monde possible. Et peut-être qu'on peut dire un mot sur le fait que vous avez gagné un petit... je ne me rappelle pas exactement le nom de ce prix. Le concours du Jazz Marathon. Voilà. Donc peut-être on peut le dire, hein, comme ça, ça fait plaisir. Hein. On n'a pas des musiciens comme ça. Hein. Donc le concours du Jazz Marathon, ça s'est tenu à la place Fernand Cox, c'est ça, oui. Et ça nous permettra de jouer sur la Grand Place l'année prochaine. Waouh. Dans le cadre du Jazz Marathon. On y sera. Voilà. Voilà. Donc c'est noté sur l'agenda, on ne sait pas quel jour exactement. Et alors, on continue l'émission avec un appel qui nous vient de Angelo. Pronto. Ouais, c'est Pierre de Bruxelles, ça va, M'fi? Ah, salut Pierre, comment tu vas? Mais ça va, je voulais féliciter les camarades de jeu là qui sont en train de faire de la musique. Ouais, voilà, donc on vous félicite. Hein. Merci d'avoir appelé. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous appeler? J'ai pas tout à fait fini. Ah. Donc, je voulais féliciter les jeunes musiciens qui sont dans ton studio. Ouais. Mais je voulais également encourager tous les étudiants qui sont en train d'étudier pour leurs examens, parce qu'il y en a encore. Ouais, tu as bien raison. Tu fais bien nous rappeler ça. Hein. Je suis en train de passer devant l'ULB, alors je pense à eux. Voilà, voilà. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de café, pas trop de bière. Faites attention, ouais, étudiez bien. Et c'est le dernier jour. Donc, allez, courage, courage. Merci, les amis. Bisous, bisous. Merci bisous, à toi, merci, Pierre. Pierre. Ciao. Merci. Ciao. Donc, merci Pierre, voilà, avec étonnement. Nous te remercions pour avoir appelé, pour avoir félicité les musiciens. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc, on re-switch de langue. Je suis un peu confuse. Oui, moi aussi. Je sais qui suis-je? Qui suis-je? Ou beige. Ça, j'adore. C'est pas bon, peut-être. You cook. C'est pas bon, peut-être. Ripassiamo in italiano. Allora, Io mi chiedevo quanto a livello culturale sia cambiata un po' la tua vita, il tuo approccio alla femminilità, alla coppia, alla famiglia, passando dall'Iran all'Europa, in particolare il Belgio, l'Italia. Com'è? Penso la cosa importante è integrazione. Già viaggiare aiuta tanto, di essere flessibile e conoscere altre culture e aprirsi verso il mondo e conoscere altre persone. E poi certo ci sono tante differenze, però uno accetta certe differenze e poi l'altra persona anche accetta altre. Mm-hmm. Il mio caso particolare, per esempio, io ce l'ho due capodanni, festeggio due volte all'anno. Che bello! Che bello! Per esempio, così se uno ti va male, perché a noi ci va sempre male Capodanno. Esatto, troppe sì. attese, e noi aspettiamo sempre quel Capodanno per fare il super festone, e poi o Angelo c'ha la febbre, o insomma succede di tutto a noi a Capodanno, quindi almeno uno su due, cavolo, ti deve andare bene. Infatti, per questo ho deciso di festeggiare due volte. Due regali. Ah, si fanno i regali a Capodanno? Feste, certo. Ah, ecco, dai, sì. Trasferiamoci. Capodanno persiano è 21 marzo, è primo giorno di primavera. Ah, vedi? E così potete raggiungermi l'anno prossimo. Andiamo! Andiamo, Carla, andiamo. Siamo state ufficialmente invitate in Io radio. Mi porto l'amica, quella là, Michelle. Ne parliamo dopo. Dopo parliamo del viaggio, che stiamo già organizzando, stiamo già cercando i biglietti praticamente per andare in Iran con Mariam. E mi è venuto in mente che tu, aspetta, l'altro giorno mentre stavamo parlando proprio di questa cosa dell'integrazione e della differenza, mi hai detto una cosa carina che ti ha detto tuo papà una volta, che a me è piaciuta tantissimo. Sì, mi ricordo quando volevo fare conoscere mio marito, mio futuro marito, ai miei genitori. Mio padre, ho detto, papà, ho conosciuto un italiano, bravissimo, tutto. Come vedi se mi sposo con un italiano? Mi ha detto, guarda, la differenza di cultura c'è anche già dentro una città. L'importante è che questa persona sia una persona umana, che vi sentite molto vicino e accettate le differenze e pensi che è sempre lì presente per te. Hai capito il paparino? Non è splendida questa cosa? Che bello, dai, un bacio al papà, vabbè, anche lui. Grazie. Forse non ci ascolterà, però col pensiero, come si chiama il tuo papà? Reza, sì. Un bacio a Reza. Grazie. Se mai riascolterà magari la registrazione, un bacio forte a Reza, che però non parla italiano, quindi vabbè, però. Comunque, che ne sai, magari un giorno imparerà. Sì, saluta, sa qualche parola in italiano. Ciao Reza! Ciao io! E quindi dopo questi 4 mesi però sarei in Italia, a Milano, sarei tornata altre volte, immagino. O a Roma, credo, più che altro, forse, no? Perché a Roma vado spesso, perché i miei suoceri vivono a Roma, vado spesso a trovarli. E poi ho lavorato anche, dopo sono tornata ancora in Italia per lavorare. È stata una bella esperienza. E di nuovo sono tornata a Bruxelles. Non posso staccarmi da Bruxelles. Evidentemente no, c'è qualcosa che ti porta sempre molto a Bruxelles. Molto forte. Come anche noi, poi, in fondo. Senti, ma io qui guardo l'orologio e vedo che sono già le 21:43, il tempo stringe. Allora mi chiedevo, ci sono delle cose che magari vorresti dire, qualche aneddoto, qualcosa che ti ha colpito, questi italiani che rompono, loro il cibo, che la pasta deve essere per forza, non lo so. Vai, libero, carte blanche. Forse posso raccontare una storia, perché mi ricordo la prima volta quando sono andata lì a fare mio stage, mi ha detto, attenzione, lì in Italia ti rubano, fai attenzione a quelle che fai. Ho detto, va bene, faccio attenzione. Quando sono arrivata, ho preso un taxi dall'aeroporto, ho chiesto al tassista di fermarsi davanti a un bancomat, perché dovevo assolutamente ritirare soldi. E questo bancomat, nel questo bancomat era bloccato mia carta. Invece questa tassista è stata molto gentile, mi ha aiutato, mi ha riportato a casa senza pagare e mi ha dato appuntamento il giorno dopo, mi ha riportato in banca per risolvere questo problema. Sono stata molto colpita, non aspettavo. Anche noi siamo colpiti, a me sì, infatti, mai sì. Successa una cosa del genere. Beh, però vedi, perché poi secondo me a partire magari con tutte le ansie, poi alla fine quando vieni sorpreso positivamente te lo ricordi. È bravo, bravo il tassista, bravo. Sì, vedi che noi italiani non sempre siamo giusto. Senti, tu sei sposata ovviamente con un italiano, abbiamo detto, ma che come avete deciso dove sposarvi concretamente, cioè dove svolgere il rito? A Roma, perché Roma è bellissima città e tutti sognano sposarsi a Roma. E, mi ricordo il giorno di matrimonio quando sono andata da parrucchiere, una persona mi ha chiesto: ma un matrimonio finto o vero? Perché tante persone vengono qua, si fanno truccare, fare tutto e poi solo prendere le foto, non è il matrimonio vero. Ho detto no, è il giorno del mio matrimonio vero. Questa la prendo ora. Ma per quello che costa un matrimonio, che lo fai per finta? Cioè, non lo so. Forse... A quanto pare c'è chi può. E invece Carla, evidentemente... Ma anch'io mi devo, infatti quest'estate ho un matrimonio previsto. Angelo, ci vogliamo risposare a Roma, dai. Cecilia, veniamo a casa tua a dormire. Io mi sono già sposata a Roma. E vabbè, adesso rifai, la prossima volta vado cambi da un'altra zona, parte. Cambi chiesa, dai. Va bene, mentre loro parlano, noi li tagliamo e vi faccio ascoltare un 30 secondi di questa bellissima musica di matrimonio persiana e poi lasciamo Julien e Guillaume suonarci un altro brano che sarà Wave di Antonio Carlos Jobim. Thank you. insieme su i colori dell'anima. Sui colori dell'anima abbiamo quello che avevamo appena ascoltato, mi dicono che era Wave di Jobim. Così? Jobim? È lui! Ok, avevo paura sulla pronuncia del nome e ormai sono già le 21:53. Anche Mariam prima mi faceva segno che il tempo vola quando si è qui dentro, ed effettivamente poi con questo accompagnamento musicale fantastico questa sera la serata è veramente volata. Vogliamo ringraziare i nostri fratelloni tantissimo. Guillaume e Julien Gillin, grazie mille davvero, vi aspettiamo. Merci beaucoup. Grazie mille, grazie a Mariam. E ovviamente è arrivato il momento del colore. Vai. Devo dire il mio colore? Un colore che tu dai a questa puntata, per te. Un colore blu. Blu mi piace tantissimo e penso che... Come è inflazionato. È sempre un colore che va molto... In questa trasmissione, perché in fondo il blu esprime anche tranquillità, in fondo, no? E poi il colore degli azzurri. Giusto. E poi Carla è vestita in blu, forse... Ah, ma anche tu c'è blu, guarda. Io sono un blu, nero, rosa. C'è il bracciale. Come al solito io mi vesto al buio, quindi quello che viene, viene. Cecilia cade nell'armadio. Esatto. Tutum. Soprattutto perché stamattina mi sono vestita alle 6:15. Terribile. Esatto. Terribile. Senti, Mariam, un saluto particolare a qualcuno? Qualcosa che vuoi aggiungere? Saluto tutti e poi Lorenzo... Ti saluto. Il maritino. Il famoso marito di cui abbiamo tanto sentito parlare. Sì, ti mando tanti baci. Che purtroppo questa sera credo che fosse anche un po' raffreddato, quindi ci auguriamo che possa rimettersi presto. Purtroppo a novembre succede. Senti, ma se fai Ramadan, sei musulmana? Non lo faccio, purtroppo. Sono molto colosa. Volevo chiederti se stai morendo di fame. Sì, devo tornare a casa, devo mangiare. Non ho mangiato niente con Cecilia. Ma lo sai che ieri mi ha detto... No, ieri, l'altro... Insomma, venerdì, le ho chiesto se c'è una cosa che le manca dell'Iran. Mi ha detto che le feste... Che in particolare le mancano le feste. Carla, dobbiamo andare. Andiamo. Dobbiamo andare. Noi ragazzi, noi vi diamo l'appuntamento come ogni lunedì del mese alle nostre colleghe equipe. Noi saremo qui il 20, vabbè, insomma, l'ultimo lunedì di luglio, 25, 20, dai Cecilia, tu che sei super super tecnologica, dai, facci spuntare un calendario così magica bula, boom. 27, vedi? È il mio anniversario di matrimonio. Dai, e allora lo festeggerai già qua, sai? Buonasera, che culo. Buonasera a tutti, ciao. Ciao a tutti. Al 27 luglio. Bastona primo, bastona due volte. Sono giaguaro, sono Lazzi, io non lavoro manco se m'ammazzi. Viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda. Scalda quel gran pezzo dell'Ubalda. Bamba, disco, samba, un po' di rumba. Arrivar giaguaro, un urlo nella giungla. Muovi la mano, giovannona, coscia lunga. Piedi più fianchi e palla questa rumba. Come Ramba, stile pornografico. Mascio piotta, muscio decamerotico. Entro, esco, non vengo presto. Meglio un ritardo che il tuo pretesto. Stress, lavori, impegni, sii più onesto. Prima o poi te lo butto in del posto, pacco, doppio pacco contro paccotto, occhio malocchio per sembrare finocchio. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli il piano, con la mossa del giaguaro, prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro, tutti sciogli il piano, con la mossa del giaguaro, prendi questo ritmo amaro. Pischelle belle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a belle. Giaguaro e ne paraggi assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, anche a tette grosse come Lolo Ferrari, io duri e compari, flamine col veleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizio e tu non ce l'hai, tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato. Anfami, dedicato a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano. Di me, dove credi di andare, cosa pensi di fare adesso, vieni via di là, o mi prendi così e mi fai respirare, o mi lasci libero di andare via da te, è stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio. Così dicesti di te, di me, di noi, di te, di me, di noi. Ci si fa male anche così, restando amici e niente più. Ci si fa male anche di più, se poi mi chiami ancora tu. Ci si fa male anche così, decisi a non vedersi più. Un'altra notte ancora qui. Un po' giù, che parole di troppo, stai sbagliando le mosse amore, se vai non torni più, è stato subito sì, ci metto tutto l'amore mio, così dicesti di te, di me.